cosa è Xanax, baby, mi sveglio più ricco di prima. Ai piedi Valentino Rosa come fossi una bimba. Chiamo la tua ragazza bimber, messe sopra la cinta. A colazione mangio polla, cena, soldi e cocaina. G-star, vesto da donna, al collo sembro una zingara. Pancia gonfia, pesce crudo, mi si slaccia la cinta. Tua madre chiama Tony, vuole i pezzi e una firma. Fumo così tanto, mi si annebbia la vista. Così tanti soldi, sembra che lavori in banca. Sei vecchio, sei già morto, il tuo posto è in una bara. Sei già morto. DPG 777, questa è mafia. Questa è mafia. Da Roma a Napoli, su ogni piazza. Per tutto. Bacio in bocca come i mafiosi. Smeraldo al collo, sto mescolando caca. Da nord a sud, in ogni piazza di Roma. Parli di me, tu a casa a fare cosa? Bacio in bocca come i mafiosi. Smeraldo al collo, sto mescolando caca. Da nord a sud, in ogni piazza di Roma. Parli di me, tu a casa a fare cosa? Parli di me, tu a casa a fare cosa? Sto in studio a registrare, stavo in casa a fare cose. Cosa? Bilancio e pezzi di coca. Do un bacio in bocca a Tony, cosa nostra. Ti mando un bacio in fronte, sei carne morta. Vuoi fottere la gang, non fa bene alla salute. Come troppa carne rossa, ho una canna troppo grossa. Faccio fatica a tirarla su, ti sta per cadere il naso. Fossi in te non tirerei più. 100 metri sta, corro forte quando vedo. Vedo luci blu, odio carabinieri, polizie, tutti quei rotti in culo. Fanculo. DPG, non siamo come nessuno. Come nessuno. Non fottiamo con nessuno, no. Nessuno. Bacio in bocca come i mafiosi. Smeraldo al collo, sto mescolando caca. Da nord a sud, in ogni piazza di Roma. Parli di me, tu a casa a fare cosa? Bacio in bocca come i mafiosi. Smeraldo al collo, sto mescolando caca. Da nord a sud, in ogni piazza di Roma. Parli di me, tu a casa a fare cosa? Sick look, sick look.